Perfetto Giorno di Simone Spezia. Una serie di ordigni ritrovati neutralizzati tra New York e il New Jersey dopo l'attentato a Manhattan con 29 feriti. Secondo la polizia, la cellula terroristica potrebbe essere ancora attiva. La città è scossa in attesa dell'apertura dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nella quale si parlerà anche di immigrazione. Italia in attesa di risposte dalla Germania e da Bruxelles. Intanto Merkel trema, anche a Berlino si afferma la forza euroscettica di Alternative für Deutschland, che supera l'11%, la CDU della cancelliera scende di oltre il 6%. La giunta di Roma ancora senza assessore al bilancio, mentre emergono nuove tensioni nel Movimento 5 Stelle. Stando al libro di due ex, tra Grillo e Casaleggio ci sarebbe stato uno scontro. Una donna uccisa a Ravenna, al vaglio la posizione del marito, è stato fermato a Firenze nella villa di famiglia. Profughi, scontro tra prete e sindaco a Saronno, in provincia di Varese. Ne dovrebbero essere ospitati 32, ma il primo cittadino minaccia di dichiarare inagibile l'edificio nel quale dovrebbero andare. Un blitz ambientalista a Genova, colpiti con lo spray urticante, finiscono in ospedale due cacciatori, 15 persone identificate. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci e 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. Edizione del lunedì, come sapete, che è un po' più breve perché poi daremo spazio anche alla nostra rubrica sull'autotrasporto nell'ultimo quarto d'ora. In apertura dunque la serie di ordigni tra New York e il New Jersey. L'esistenza di una cellula terroristica attiva, composta da diversi elementi che possa essere al lavoro nell'area di New York e New Jersey, e quanto ipotizzano e temono alcuni funzionari di polizia? 8 gli ordigni rintracciati ad Elizabeth, dei 5 trovati in uno zainetto sulla linea ferroviaria che collega Penn Station a Manhattan, uno è esploso senza recare danno mentre gli artificieri erano impegnati a disinnescarlo. Del New Jersey sono anche le 5 persone fermate dall'FBI ad un posto di blocco nei pressi del ponte di Verrazzano. I 5 avevano armi in auto e i loro fermi sarebbero collegati, ha chiarito l'FBI, all'attentato nel quartiere di Chelsea a Manhattan, in cui sabato 29 persone sono rimaste ferite. L'ordigno utilizzato sulla 23esima strada e quello rintracciato sulla 27esima, non esploso, erano costruiti per far molto danno, pieni di schegge e frammenti metallici. Nelle mani degli investigatori dei video in cui si vedrebbero tre uomini in azione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli eventi di New York e del New Jersey, tra l'altro, potrebbero influire in maniera pesante sulla campagna elettorale per le presidenziali e sul voto di novembre. Anche di questo parleremo in America 24, in onda, più avanti nel corso di Effetto Giorno. Veniamo al fronte immigrazione, punto di scontro in Europa, che approda però proprio nella città americana. In una New York blindata si terrà oggi alle Nazioni Unite il primo vertice ONU dedicato al tema dei rifugiati e dei migranti. Sono attese le delegazioni di 150 paesi. Il premier Renzi, che ha battuto i pugni sul tavolo a Bratislava sulla necessità di condividere la responsabilità sui migranti, spera di trovare un appoggio a New York. In contemporanea, in Italia si ragiona di come passare a livello nazionale da una gestione emergenziale adatta alle 30.000 persone di 6 anni fa a una strategia più a lungo e medio termine, conforme alle presenze attuali 160.000 migranti sul territorio. Il governo italiano sta pensando di trasferire la cabina di regia dal Viminale a una struttura della Presidenza del Consiglio che coordini gli interventi in materia di accoglienza e gli accordi bilaterali con i paesi di origine dei migranti per facilitare i rimpatri. Auspica un piano nazionale anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'immigrazione, scrive Sala in una lettera a Repubblica oggi, è una questione gigantesca che chiede un radicale cambio di passo. Sarà una coincidenza, ma il governo sembra andare proprio in questa direzione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di immigrazione torneremo a parlare più avanti, come già sentivate nei titoli, nel nostro consueto giro per l'Italia, nel quale spesso ci capita di toccare questo tema. Andremo a Saronno, in provincia di Varese, dove è in atto uno scontro tra il sacerdote locale, il parroco e il sindaco, esattamente sul tema dell'accoglienza. Altro punto di frizione con Bruxelles è certamente quello economico. Oscilla tra 23 e 27 miliardi la manovra di bilancio per il 2017 allo studio del governo. Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia legate alla legge di bilancio 2016, cioè l'aumento dell'IVA, pensioni e rilancio degli investimenti sono i principali interventi sul tavolo. Nella legge di stabilità potrebbe essere inserita anche la riduzione dell'IRPEF, che sarà in vigore dal 2018. Le idee non mancano, ma devono fare i conti con le scarse risorse a disposizione. Sul fronte delle entrate si pensa a una nuova asta di frequenze televisive che potrebbe fruttare un miliardo di euro. La prossima settimana, comunque, il Ministero dell'Economia renderà noto l'aggiornamento delle previsioni di crescita e quindi si avrà un quadro più preciso sul perimetro della manovra. La legge di bilancio aumenterà o diminuirà anche in base a quanta flessibilità il governo riuscirà a spuntare a Bruxelles e al momento si punta ad avere un margine di 8-9 miliardi di euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E certamente i temi europei e quelli dell'immigrazione hanno pesato sul voto di ieri in Germania. Nuova sconfitta del cancelliere Angela Merkel e nuova vittoria del partito anti-immigrati AfD, alternativa per la Germania alle elezioni amministrative di Berlino. Sono due facce della stessa medaglia, la politica a favore dei rifugiati del capo del governo tedesco è decisamente impopolare presso gli elettori, che hanno spinto la CDU della signora Merkel alla percentuale più bassa del dopoguerra nella capitale e ancora una volta hanno optato per la soluzione più estrema, quella appunto di AfD. Dalla parte opposta dello schieramento politico ha guadagnato terreno la sinistra della Linke, anch'essa beneficiata dal malcontento e dalla protesta popolare. Anche i socialdemocratici della SDP, pur restando il primo partito della capitale, hanno perso vistosamente consensi. La linea del cancelliere si troverà quindi ancora sotto accusa nei prossimi mesi anche da parte dei suoi stessi alleati, che entro i primi di dicembre devono decidere se ricandidarla per un quarto mandato, un'ipotesi che fino a pochi mesi fa non era neppure in discussione. Intanto la presenza di ben sei partiti, come avverrà nel Parlamento della città di Berlino, rischia, se replicata il prossimo anno a livello nazionale, di creare un rebus di difficile soluzione per l'assemblaggio del futuro governo. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E mentre l'Europa si dibatte in questi problemi, oggi sono celebrati i funerali di un grande europeo. L'intera Italia oggi è in lutto per il presidente di tutti, così Monsignor Vincenzo Paglia ha aperto l'omelia per i funerali del presidente emerito Ciampi nella parrocchia di San Saturnino Martire nel quartiere Trieste di Roma, ma subito si è rivolto a Donna Franca seduta in prima fila accanto ai figli Claudio e Gabriella per tentare di consolarla. Il parroco ha ricordato il 70° anniversario di matrimonio dei Ciampi che cade proprio oggi, 19 settembre. Nel 1946 tu e Carlo vi siete sposati a Bologna e questo cade come una goccia di tenerezza che un poco smorza la crudezza della morte del distacco, ha detto Paglia. Presenti alle esequie le massime cariche dello Stato, Mattarella, Grasso, Boldrini, ma anche tante personalità del mondo della politica, Casini, Monti, Bertinotti, Veltroni, coniugi Prodi e poi il governatore di Banca Italia Visco e il presidente della BCE Draghi. Un grande applauso ha poi rotto il rigoroso silenzio e accompagnato il feretro all'uscita dalla chiesa, preceduto da una corona di fiori coi colori della bandiera italiana. Fuori un grande cartello esposto dai cittadini. Sei stato l'onore della patria e della famiglia. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Roma restiamo per parlare però delle tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle e della scelta dell'assessore al bilancio della Giunta Romana, che tarda. Diamo fastidio, ci attaccano, ma noi gli faremo vedere chi siamo. Di fronte alle tensioni interne ed esterne, il sindaco Virginia Raggi passa al contrattacco. Sul blog di Grillo lancia un appello ai militanti ai quali dà appuntamento a Palermo il 24 e il 25 settembre per la kermesse del movimento. Ma intanto non sarà una settimana facile per la sindaca. A giorni dovrà essere resa nota la decisione sui giochi olimpici di Roma del 2024, mentre è già fissata per domani la riunione dell'assemblea capitolina in cui sono previste le comunicazioni. Atteso per l'occasione anche il nome del nuovo assessore al bilancio e successore di Marcello Minenna. L'assenza di questa figura starebbe paralizzando l'attività dell'amministrazione, tant'è che una settantina di dirigenti comunali ha inviato una lettera alla Raggi per sollecitare un cambio di passo nel governo dell'Urbe. Mentre ad agitare le acque all'interno del movimento ci pensa anche Supernova, un libro a cura di due ex comunicatori dei 5 Stelle, Marco Canestrari e Nicola Biondo, che svela il retroscena del movimento. Nell'incipit del primo capitolo, pubblicato online, si legge: questa è la vera storia del primo vincente esperimento politico mai nato in rete, ma anche la storia del più grande raggiro di massa mai messo in atto in una democrazia occidentale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: si sospetta del marito per una donna uccisa a Ravenna. A Ravenna, una donna di 40 anni è stata trovata morta nello scantinato della sua abitazione. A dare l'allarme il fratello, che non aveva sue notizie da venerdì. Si era insospettito ritrovando la sua auto per strada con lo sportello aperto. La donna, Giulia Ballestri, sarebbe stata colpita alla testa, probabilmente da un bastone. Nessun dubbio, però, che si tratti di omicidio. Al vaglio la posizione del marito, Matteo Cagnoni, noto dermatologo. Sarebbe stato fermato a Firenze, città d'origine della sua famiglia e alla quale era legato da interessi accademici. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre per la cronaca ci spostiamo in provincia di Vibo Valentia. Vediamo se riusciamo a sentire quest'audio. Beh, certo, è un elicottero e lo sentite perché ieri a Nicotera, provincia di Vibo Valentia, centro storico chiuso, meglio trasformato in una specie di pista di decollo e atterraggio per l'elicottero di Antonino Gallone e la sua sposa, che si sono sposati appunto atterrando nel centro di Nicotera con l'elicottero. Qual è il punto? È che Antonino Gallone è nipote di un esponente del clan Mancuso. Il comune nega di aver fornito l'autorizzazione per tutto questo. Fatto sta che il centro di Vibo Valentia, di questo paese in provincia di Vibo Valentia, è rimasto chiuso sostanzialmente per 3 ore. Lo spettacolo sono stati assegnati ieri gli Emmy. The Emmy goes to Game of Thrones. Grande trionfo di Game of Thrones, il trono di spade, alla 68esima edizione degli Emmy Awards, considerati gli Oscar della televisione, che si sono svolti questa notte al Microsoft Theater di Los Angeles. La serie televisiva, già pluripremiata lo scorso anno, ha fatto incetta di statuette, ben 12, tra cui quella per miglior serie drammatica, miglior regia e miglior sceneggiatura, entrando così nella storia. Con 38 premi conquistati in totale, la serie TV ispirata ai romanzi di George R. R. Martin è quella con più riconoscimenti di sempre. Nessun Emmy invece per i protagonisti del Trono di Spade. Nella categoria miglior attore non protagonista, infatti, il mitico Jon Snow, ovvero l'attore britannico Kit Harington, si è visto soffiare il premio da Ben Mendelsohn per Bloodline. Ma i 68esimi Emmy Awards sono stati anche all'insegna di VIP, la commedia su un'immaginaria vicepresidente degli Stati Uniti, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, che ha vinto 2 Emmy, uno come miglior serie comedy e uno come miglior protagonista per la 6ª volta. Questo proprio nei giorni in cui impazza la campagna per le presidenziali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso un paio di notizie arrivate pochi istanti fa. Una riguarda i dati forniti dall'INPS sul lavoro nell'osservatorio sul precariato. Nei primi 7 mesi del 2016 sono stati stipulati 972.000 contratti a tempo indeterminato a fronte di 896.000 cessazioni. Il saldo è positivo per 76.000 unità. Il dato diffuso oggi dall'INPS è peggiore dell'83,5% rispetto a quello dello stesso periodo del 2015. Lo ricordiamo, quando l'incentivo per i contratti stabili era più alto. In crescita anche i voucher, ne sono stati venduti 84,3 milioni, un più 36% rispetto allo stesso periodo del 2015 appunto. L'altra notizia è una bella notizia che arriva dall'Europa, il premio europeo, il premio della 28esima edizione del concorso Giovani Scienziati della Commissione Europea è andato ad un italiano, si chiama Valerio Pagliarino, 16 anni, è notizia anche questa di poco fa, studente di un liceo scientifico della provincia di Asti. Nel concorso ha presentato un progetto che si intitola Laser One, connessione a banda ultralarga laser. In sostanza Pagliarino avrebbe trovato il modo di aumentare la banda larga con la possibilità di portarla ad esempio in piccoli centri dove oggi ancora non esiste. La giornata calcistica di ieri. Scacco alla regina. Data sull'orlo dell'ennesima crisi di nervi dopo il tonfo casalingo in coppa con l'Apoel, l'Inter di De Boer rinasce dalle proprie ceneri e manda KO sua maestà la Juventus, che magari lo scudetto lo vincerà a mani basse, ma che stavolta davvero non convince. Così come Allegri, che lascia in panca il pipita Higuain per una 70ina di minuti, preferendogli Mandzukic. Ma niente scuse, gran merito è dell'Inter, che ingolfa il motore della vecchia signora e con Icardi e Perisic rimonta il vantaggio bianco-nero siglato da Lichtsteiner. 2-1 che rilancia i nerazzurri per la gioia di capitani Cardi. È sempre bello segnare contro una rivale così come la Juventus. Manca tutta la stagione ancora e si può lavorare bene. Allegri medita sulla lezione subita. Questa sconfitta ci deve bruciare dentro e ci fa ritornare definitivamente con i piedi per terra. Capova anche la Roma, sconfitta in volata per 1-0 a Firenze, ma il gol di Badel è viziato dal fuorigioco di Kalinic. Vola anche il Sassuolo, che piega il Genoa 2-0, il Cagliari travolge l'Atalanta per 3-0, 1-1 tra Crotone e Palermo e 0-0 tra Torino ed Empoli. E domani si torna già in campo con un gustoso Milan-Lazio, anticipo del turno infrasettimanale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una pausa, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Lo inizieremo parlando di migranti e di profughi, di uno scontro, come già si diceva, uno dei tanti che probabilmente sta avvenendo nelle città italiane, tra il parroco e il sindaco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della serie di ordigni ritrovati neutralizzati tra New York e il New Jersey e di una cellula terroristica che potrebbe essere ancora attiva, e ci torneremo tra poco in America 24. Abbiamo parlato di immigrazione e dell'Italia che va all'Assemblea dell'ONU con questo tema in primo piano. Abbiamo parlato delle elezioni tedesche con la forza euroscettica AfD che supera l'11%. Abbiamo parlato della giunta di Roma, abbiamo parlato di una donna uccisa a Ravenna, era al vaglio la posizione del marito, è appena arrivata la notizia che il marito è in stato di fermo per l'omicidio di questa donna. Prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, una precisazione. Allora, a proposito del partito tedesco euroscettico AfD, sì, avete ragione, lo dico agli ascoltatori che mi hanno scritto, si dice Alternative für Deutschland e non Alternative für Deutschland, e sì, il paese in provincia di Vibo Valentia si dice Nicotera e non Nicotera, è lunedì per tutti, lo è anche per me, abbiate pazienza. Vedo Alessandro Longoni che si agita dall'altra parte. Dovremmo avere in linea per iniziare il nostro giro per l'Italia, dovremmo andare a Saronno in provincia di Varese. Abbiamo in linea con noi Don Armando Cattaneo, che è il prevosto di 6 parrocchie della zona. Don Armando, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, un giorno rifletteremo su come si sono spostate le cose rispetto a 50 anni fa, insomma, quando Giovannino Guareschi ci parlava dello scontro tra i parroci e i sindaci comunisti, qua le cose sono radicalmente cambiate, non è il primo caso che raccontiamo da questo punto di vista, dove il tema si sposta, il tema dello scontro tra i sindaci e i parroci si sposta sul tema dell'accoglienza dei profughi. In questo caso voi siete pronti ad accoglierne 32, ma il sindaco a quanto pare sta preparando un'ordinanza o vuole preparare un'ordinanza per dichiarare inagibile l'edificio nel quale volete portarli. Dunque, non c'è proprio nessunissima polemica, semplicemente noi abbiamo preparato su invito del prefetto, e ci sembrava l'autorità competente, uno spazio indicato dal prefetto in persona. L'abbiamo arredato in un modo minimale ma dignitoso, anche con l'aiuto degli scout. Abbiamo affidato questa cosa alla Caritas, che ci sembra un eccellente, molto competente. La Caritas ha assunto allo scopo addirittura 5 persone per poter curare l'integrazione, l'inserimento. Per cui ci sembrava di aver fatto tutto molto bene. Sì, tra l'altro però non c'è nessuna polemica da parte mia. Sì. No, figuriamoci, tra l'altro Don Armando, mi sembra che avete è stato preparato una sorta di vademecum, no, per queste persone che arrivano qua, nel quale gli si dice queste sono le regole, ti chiediamo di impararle, di rispettarle bene, bravo, eccetera, bravo. Eccetera. No, sì, ho capito, sì, bene la storia. Sì. Cioè, cioè, voglio dire, ci sembra di essere persone coi piedi per terra, non siamo degli idealisti oppure come certi amano dire oggi buonisti, ma no, ma siamo persone che guardiamo negli occhi gli altri e queste sono persone che hanno bisogno, punto. Ora gli abbiamo detto, senti un po', sei stanco? Ti abbiamo preparato un letto, sei affamato? Ti abbiamo preparato qualcosa da mangiare, però sappi che noi abbiamo una città molto bella che è Saronno, abbiamo la nostra cultura, abbiamo le nostre regole, le leggi dello Stato, i regolamenti del comune, le nostre tradizioni religiose e anche le nostre buone abitudini. Ti chiediamo di impararle bene e sei tenuto a rispettarle. Cioè, ma voglio dire, sì, no, che è corretto. Volevo che il sindaco approvasse. E invece non è andata così. Non vuole nemmeno queste 32 persone. Sì, ma adesso vuole che gliela dica tutta. Ma neanche noi, non è che noi smaniamo per volerle. Cioè, noi, il mio sogno è che queste persone possano vivere in pace e in prosperità a casa loro. Ma perché? Logico. Cioè, chi sogna che sia bello permettere che la gente strappi via? Abbiamo visto nel terremoto di pochi giorni fa, la gente non vuole lasciare il suo posto. Se questi vogliono lasciare le loro terre, è perché sono in situazioni più disperate dei terremotati, se si potesse fare una classifica di disperazione. Quindi è chiaro che il nostro sogno sarebbe che smettessimo di fare guerre, che smettessimo di affamare perché portiamo via un sacco di risorse a certi paesi dell'Africa, eccetera. No, però purtroppo questo non smette. Allora io dico, quando ne trovo uno o 32 che ti guardano in faccia e ti dicono hai un posto, sono sfinito, ti dico il posto ce l'abbiamo. Il posto ce l'abbiamo. Cosa succede però? Che questo posto, come racconta oggi Giampiero Rossi su Corriere della Sera, nell'edizione locale, nell'edizione lombarda, dice è un ex liceo in via Bruno Buozzi, che da quel che ho capito è di proprietà delle suore o della curia. No, delle suore. Delle suore. E appunto il sindaco dice io tanto non li voglio questi che sono disposto a dichiarare inagibile quel posto, o no? Allora, quel posto è stato imputato alla Caritas, che ha rimesso a posto un po' la cosa, di avere fatto che c'era qualcosa di non perfettamente perfetto dal punto di vista burocratico. È stata fatta la sanatoria, come si fa per ogni casa, ci sono sempre 5 centimetri di scostamento da una cosa a un'altra. Si è messa a posto, si è fatta la sanatoria, e però il problema è che che viene detto ma quella è una scuola, non è una casa, e quindi non possono fermarsi a dormire. Però, ripeto, quella scuola l'ha indicata il prefetto in persona nel mese di ottobre dell'anno scorso. Sapeva perfettamente che era una scuola, perché lui conosceva che era vuota, perché la scuola del liceo aveva appena smesso di prenderla in affitto. Cioè, era tutto ben noto. Allora, se adesso tutte le situazioni in cui stanno i profughi devono essere o abitazioni private o alberghi, questo non mi risulta che sia così, da nessuna parte succede questo. È chiaro che è temporanea la cosa, non possiamo chiedere, cioè si dovrebbe chiedere il cambio di destinazione d'uso di una scuola a che cosa? Temporanea struttura di accoglienza. Sono io che non capisco. Nessuno di noi vuole passare sopra alle regole, veramente. Cioè io in ogni cosa siamo attentissimi alle normative, e però qui non saprei come uscirne. Oppure una soluzione ce l'avrei. Cioè? Beh, la soluzione è io brevemente, da tre giorni. Cioè da quando ho sentito, io da tre giorni sostengo Maroni. Lei dirà come? Perché? Questa storia. Sì, perché Maroni ha appena detto che lui sta chiedendo al governo una legge d'emergenza. Con una legge d'emergenza potrebbe decidere tutto il prefetto. Io sostengo Maroni. Ok, allora io la ringrazio. Grazie a Armando Cattaneo, che è il parroco di sei parrocchie là in giro per Saronno, e che ci ha raccontato questa storia. Io vedo un po' di messaggi polemici dagli ascoltatori. Come sapete, le storie le raccogliamo da tutte le parti. Sentiamo i sindaci leghisti, i sindaci non leghisti, sentiamo i parroci, la Caritas, un po' di tutto, insomma. Ed è il tema, è sottolineare quanto la gestione di tutto questo sia oggettivamente complicata, difficile e a volte oggettivamente malfatta. È un tema che sottolineiamo sempre, non riguarda i profughi, non riguarda i parroci, non riguarda i sindaci, ma riguarda la gestione dell'accoglienza in generale. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Un'altra piccola storia, un po' più leggera se vogliamo, ma nemmeno troppo, un blitz ambientalista nel quale sono stati colpiti con lo spray urticante due cacciatori. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: una serie di ordigni sono stati ritrovati e neutralizzati tra New York e il New Jersey dopo l'attentato a Manhattan con 29 feriti. Secondo la polizia, la cellula terroristica potrebbe essere ancora attiva. La città è scossa in attesa dell'apertura dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nella quale si parlerà anche di immigrazione. Italia è in attesa di risposte su questo fronte dalla Germania e da Bruxelles. Nel frattempo Merkel trema, anche a Berlino si afferma la forza euroscettica di Alternative für Deutschland, che supera l'11%, la CDU della cancelliera scende di oltre il 6%. La giunta di Roma ancora senza assessore al bilancio, mentre emergono nuove tensioni nel Movimento 5 Stelle. Stando al libro di due ex, tra Grillo e Casaleggio ci sarebbe stato uno scontro. Una donna è stata uccisa a Ravenna e in stato di fermo il marito è stato catturato a Firenze nella villa di famiglia. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il prossimo punto che tocchiamo nel nostro giro per l'Italia è Genova. Perché? Perché nei giorni scorsi la regione Liguria ha approvato una legge sulla caccia che è molto dura nei confronti delle proteste degli ambientalisti. Cioè, dice, se andate là a rompere le scatole ai cacciatori mentre stanno facendo quello che vogliono fare, insomma, appunto cacciare, divertirsi e così via, rischiate una sanzione anche pesante. Gli ambientalisti che cosa hanno deciso? Hanno deciso, se voi varate questa legge, noi mettiamo su una protesta eclatante. E questa protesta eclatante però si è conclusa con due persone che sono finite in ospedale, due cacciatori. Saluto Angelo Celle, che è il presidente provinciale di Genova dell'Associazione Nazionale Libera Caccia. Celle, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, due persone finite in ospedale, spray urticante spruzzato agli ambientalisti, ho capito bene? Ma quanto onestamente abbiamo letto sul giornale, pare di sì, che si organizzano anche su quello. Ma quello che non condividiamo è che la caccia è uno sport con delle regole che devono essere rispettate e quindi la gente ha diritto di esercitare questo tipo di discorso. Io posso capire che gli ambientalisti non siano d'accordo su questo discorso, ma finché questa legge c'è deve essere rispettata. E devo dirle anche di più, che siccome i cacciatori hanno un'arma in mano sono bravissimi, nel senso che non reagiscono. E è giusto che sia così, capisce? Sì, però dice potrebbero anche reagire, cioè qualcuno dice gli potrebbe partire il boccino, dice. Io mi auguro di no, tutti noi gli abbiamo detto di stare calmi, eccetera, perché tanto questa cosa si risolve sempre i primi giorni dell'apertura, se le notizie in passato, eccetera, poi la cosa scema così. Il problema è che c'è da augurarsi che qualcuno non perda la testa. Ma lei è mai capitato, Celle? Cioè, si è trovato davanti un ambientalista, guardi, e dice adesso gli sparo? No, assolutamente, guardi, addirittura le posso anche dire che in quei casi lì è meglio attore scaricare l'arma per non farsi prendere e lasciarli sfogare. Oppure andarsene, ma non ritengo che sia giusta una cosa così. Certo, ci mancherebbe altro. Senta, temete altre azioni di questo tipo per i prossimi giorni? Ma guardi, generalmente per l'esperienza che io ho, 74 anni, tutto si risolve i primi giorni dell'apertura della caccia. Poi difficilmente queste persone qui poi vanno, poi comincia a essere anche freddo, insomma. Dice non c'hanno più voglia di venire all'arma. Non lo so, sono dei provocatori, guardi, e loro probabilmente vogliono, mi scusi il termine un po' forte, vogliono martire, ma credo che i cacciatori martire vogliono loro, scusi che non si è sentito bene? Vorrebbero un martire. Ah, ok. Cioè vorrebbero, lei dice vorrebbero che un cacciatore, appunto, gli partisse un po' di testa e gli sparasse. È bravo, sì, io penso che vorrebbero quello, ma credo che oltretutto i cacciatori hanno una finita penale pulitissima, perché lei basta che manda un vigile a quel paese, lo denuncia, le ritirano porto d'armi e armi e tutto. Quindi sono persone normalissime. Dice stanno bene attenti, insomma. Ma certo, ma poi c'è una legge in merito. Adesso la regione Liguria, come ha detto lei all'inizio, c'è anche queste sanzioni che hanno messo, perché è l'ora di finirle. Io mi auguro che anche altre regioni adottino lo stesso sistema. Adottino questo stesso sistema. La ringrazio. La ringrazio, grazie Angelo Celle, presidente provinciale di Genova dell'Associazione Nazionale Libera Caccia. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.